sembri più tu. Ma quanti cazzo di problemi ho? Come fai a guardarmi così? Come se un cuore fosse in prestito. Ti ho detto passa ma non passa mai. Ti ho detto basta ma non basta mai. Se ho toccato il fondo era solo per stare con te. Ti ho detto guardami in faccia poi vai. Stupida spronza che non passa mai. Come la voglia di sbatterti al muro e baciarti perché sono giù. Ora voglio solo te. Passerai, non per sempre o mai più. Ma è dal dolore che si cresce un po'. Noi contiamo e da sfigati. Scusa ma non lo dirò gratis. Cosa sei per me? Cosa sei per me? Ti ho detto passa ma non passa mai. Ho detto basta ma non basta mai. Se ho toccato il fondo era solo per stare con te. Ti ho detto guardami in faccia poi vai. Stupida sbronza che non passa mai. Come la voglia di sbatterti al muro e baciarti perché sono giù. Come seta, ma la mia più dura. Se mi ha protetto dallo schifo come un'armatura e sbagli. L'amore non è cieco, ha solo smesso di guardarci. Sono giù.